Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua nuovamente al microfono, sono Maurizio Calzavara. Stasera abbiamo un appuntamento importante, abbiamo un appuntamento con Pietruccio Montalbetti. Buonasera Pietruccio. Ciao a tutti, ciao. Ciao Pietruccio. Buona serata. Anche a te. Perché abbiamo un appuntamento con Pietruccio? Tanto è piacevole parlare con Pietruccio Montalbetti di musica, ma parliamo di una cosa importante. Tu hai scritto un libro ed è uscito di recente, Pietruccio. Sì, guarda, devo dire che è un libro che sta ottenendo dei risultati di gradimento molto alti. C'è una prefazione, quella di Vincenzo Mollica, che è veramente molto gratificante. Non è la storia dei Beatles, assolutamente. No, assolutamente no. Semplicemente il sottotitolo è molto esplicativo, perché il titolo è I ragazzi della via Stendhal, dove io sono nato, la via in cui sono nato. Il sottotitolo è Il ritratto di una generazione. È verissimo. Quello spiega già tutto. Il ritratto di una generazione è la vicenda di un ragazzo come me, di un adolescente che vive il dopoguerra in una città come Milano, in un quartiere che allora era periferico, adesso è centrale, e quindi con tutte le vicende dei ragazzi che mi hanno con cui ho vissuto questa esperienza, e ci sono tante storie che rappresentano questo periodo. Certo, ci sono le bande, in Inghilterra c'era i Rockers e i Moss, a Milano, vicino al Fiume Olona, c'era la banda dove tu partecipavi, contrapposto a un'altra banda. Certo, era tutto così. E in quel quartiere, tra l'altro in questa via Stendhal, in questo borgo, diciamo, Orione, sono nati altri artisti come Monio Vadia, che tutti voi sapete, certo, un grande personaggio della cultura Yiddish, poi Cocchi Ponzoni, che era un mio compagno di classe, Ricky Gianco, oppure quello che ha fatto la Freccia Nera, mi sfugge il nome, comunque, e poi sono i miei due compagni, Lallo e Pepe, certo, e noi siamo cresciuti lì e ci siamo formati musicalmente in questo rione. È stata la scuola in cui noi ci siamo evoluti attraverso la musica, attraverso tante altre cose. Tu racconti anche della tua famiglia, racconti un episodio bellissimo secondo me, questo giro lungo di tuo papà in Moschito fino a Reggio Calabria. Sì, questa qua è una storia veramente toccante, perché i veri eroi sono quelli che fanno piccole cose che sono veramente, apparentemente sono piccole ma sono grandi cose. Mio padre è una persona estremamente gentile e carino, aveva perso la gamba in un attentato famoso tra la prima e la seconda, sì, guerra mondiale. Si era sobbarcato nel periodo durante la guerra il procacciarsi del cibo, e faceva Milano Soncino una volta alla settimana, sono 70 km con una gamba sola, senza il motorino. Poi negli anni 65 ha applicato un motore, un Moschito, a questa bicicletta, e un giorno ci ha detto, ragazzi, alla famiglia, ha detto, signori, vado a fare il giro d'Italia. L'ha detto in milanese, poi ripetono in milanese, come l'ha detto. No, non lo so il milanese, io sono un milanese che non sa. No, poi mio padre era uno che non parlava milanese, però ha detto, era molto corretto, aveva studiato a Friburgo. Ah, sì, certo. E fece il giro d'Italia, arrivò a fine Reggio Calabria con tutte le difficoltà. Da mio padre ho appreso due cose importanti: la dignità di essere poveri, perché all'inizio eravamo, dopo guerra, erano tutti poveri, eccetto quelli ricchi che sono sempre stati ricchi, poveri nel senso non miserabili, però insomma difficoltà di reperire il cibo, e un altro spirito, quello di avventura, perché mio padre fece un'avventura pari ad aver attraversato, non so, l'Oceano Atlantico a remi, perché era una cosa. E io in tutti questi anni ho appreso questa cosa e ho girato il pianeta, posso dire il pianeta, perché veramente sono stato in qualsiasi luogo importante che mi piaceva, visitando giungle amazzoniche, montagne tibetane, vette nepalesi, fiumi africani, cioè sei andato dappertutto, per dire. Sei andato dappertutto. Tu hai citato prima Ricky Gianco, nel libro c'è scritto che nell'enciclopedia del rock si potrebbe dire il Pete Seeger italiano. È stato vero, è così? Ricky Gianco è veramente stato un grande personaggio, lo è anche tutt'oggi, però allora era veramente molto all'avanguardia. e noi siamo stati per un certo periodo il suo gruppo, i primi tempi, proprio i primissimi tempi, e ci ha un po' svezzato. Lui era molto avanti, è stato, io l'ho visto anche ultimamente, ho fatto una cosina con lui, è uno molto, molto perspicace, molto veloce nell'apprendere le cose, è stata una buona scuola. Decisamente una buona scuola. Poi dicevi nel libro, sempre parlavi del primo approccio con la musica straniera, Radio Luxembourg, questi dischi che non arrivavano in Italia, si sentivano attraverso la radio, eccetera. Sai, la nostra funzione, la funzione dei complessi, dei gruppi, è stata una funzione, si parla di cover, ma non è sbagliato dire, sì, in effetti abbiamo fatto le cover, ma noi, la funzione nostra, tanti altri gruppi, è stata quella di importare non solo la musica, ma anche un costume, perché noi venivamo fuori, la nostra generazione, dietro di noi la musica era bella, ma melodica, era musica, non so, Claudovilla, certo, cose che dico, assolutamente, cioè noi abbiamo importato della musica di una cultura che sentivamo come nostra, come i giovani sentivano come loro, e l'abbiamo importata, ma abbiamo importato anche, non so, un modo di vestire, noi e tanti altri gruppi, non era possibile fare, non so, una canzone di Gino Latilla e mettere gli stivaletti alla Beatles e canzoni di pelle, certo, non coincideva bene, allora. Quindi siamo stati punto di collegamento tra una cultura che sentivamo nostra, noi, i ragazzi di quell'epoca lì, la generazione di quell'epoca, ma non riusciva a esprimere. Poi, ad un certo punto, dopo queste cover, è arrivato il grande Lucio Battisti. Ecco, esattamente. Ma prima del Lucio Battisti c'è Iler Pattacini, della Ricordo. Iler Pattacini era il direttore artistico della Ricordo, esattamente, ma devo dire che le case discografiche non è che capissero molto, perché Iler Pattacini, quando Lucio, che io ho conosciuto prima che diventasse famoso, ma ancora prima che conoscesse Mogol, a un certo punto, quando si mise con Mogol e cominciò a scrivere canzoni, le dava ad altri cantanti. Un giorno incontra, cioè ci vedevamo quasi tutti i giorni, mi dice: "Ah, Bedru", mi chiamava Bedru, "ah, Bedru, sai che so troppo forte, mi faccio paura, sono costretto a cantare le mie canzoni perché nessuno le canta meglio di me". Perché questa cosa è venuta all'orecchio ai piani alti della Ricordi, i dirigenti, certo, i quali si sono preoccupati. Allora Iler Pattacini, che era il direttore artistico, mi ha mandato a chiamare, e mi ricordo che mi dava eravamo ragazzi, ma mi dava: "Scusi, lei che conosce molto bene Lucio, ma non potrebbe dire a Lucio di non cantare perché siamo un po' imbarazzati?" Io gli avevo risposto: "Guarda, io non sognerei mai di dire una cosa così a Lucio, ma cosa vuoi che le dica?" E infatti ha avuto ragione lui, perché certo, il modo di cantare era unico. Ecco, a proposito di questo, allora sentiamo un primo pezzo. Ci siamo messi d'accordo nel senso positivo del termine. Io avevo scelto questi tre pezzi che abbastanza inusuali, cioè inusuali, no? Inusuali all'epoca, ma adesso è tanto tempo che non si sentono più. Primo pezzo è L'Eschimese. Perché L'Eschimese? Innanzitutto, produzione di Lucio Battisti, anche questa mi pare. L'Eschimese, allora, perché L'Eschimese? Perché avete scelto una cover di un pezzo dei Manfred Mann, di Bob Dylan praticamente. Sì, e non era facile fare un pezzo come L'Eschimese. No, ma ti spiego. Dimmi perché il retroscena, mi interessa sapere quello. Allora, Lucio Battisti, quando io l'ho conosciuto, ascoltava assiduamente tre cose. Ascoltava Dylan, perfetto, Donovan e i Cream. Ed era appassionato di questa cosa, lui lo sentiva continuamente. Fino a che un giorno, visto un'altra frase di quelle roboanti, mi ha detto: "Ah, Vedrù, ho capito tutto, d'ora in poi non mi ferma più nessuno". Ho detto: "Ma che cosa hai capito? Tu non ti preoccupare, io ho capito". Lui aveva introiettato in sé un genere musicale tra Dylan, Donovan e Cream, e poi quando c'è stato da fare le retri, è stato lui che ha scelto, cioè, dato che lui non voleva diventare un cantautore, non avrebbe potuto fare delle cover, ha preso noi come cavie e ha fatto questo pezzo di Bob Dylan, ne abbiamo fatti altri due o tre che poi ascolteremo. Certo. Io lo trovo, Lallo lo canta benissimo, non era semplice cantare un pezzo di Dylan anche riveduto corretto dai Manfred Mann, secondo me. Ma ti dirò che c'era dietro Mogol. C'era Mogol, sì. Mogol, sì, esattamente. Dunque, Mogol non sa una nota. Ah, perfetto. perfetto. È nato ed è squadrato, però ha la capacità di farti capire come devi cantare. Ah. E questo l'ha fatto capire anche a Lucio, perché io continuo a ripetere che io conoscevo Lucio prima di che lui si mettesse con Mugol. Lucio, se non ci fosse stato Mugol, probabilmente non sarebbe stato quello che è, perché le canzoni che mi faceva ascoltare Lucio, tanti mi facevano, davvero, senti questa canzone, erano abbastanza delle chiaviche, tant'è vero che il primo disco che abbiamo fatto prima del grande successo di Sognando la California, sì, era un pezzo che si chiamava 1, 2, 3, un pezzo di Lemberry. Dietro c'è una canzone di Lucio Battisti, che era una canzone che si intitolava Se rimani con me, sì, e faceva amore, se rimani con me, ti giuro, sarò dolce con te e farò tutte le cose che vorrai. Questo era lo standard di Lucio. Poi evidentemente ha incontrato Mogol ha capito che c'era una potenzialità enorme in quest'uomo e ha trovato l'innesco giusto, perché io ti faccio un esempio. Dimmi. Se tu pigli una bomba atomica, sì, e la fai cadere da 3000 metri, se non c'ha l'innesco ti fa solo un buco e basta, ma se tu trovi l'innesco giusto, l'accensione giusta, ne fai un botto. Lui aveva capito che Battisti era una cosa enorme e ha trovato la chiave giusta per far uscire da Lucio tutta la sua genialità. Bene, allora sentiamo l'Eschimese, versione dei Dick Dick, testo di Bob Dylan, cioè testo di Mogol, musica di Bob Dylan. Va bene. Ok. Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. I soldi chi pensa ai fatti suoi, ma se l'esquimese viene qui tutti corrono a vedere lui. Correte qui, correte là, mai niente al mondo più vi piacerà. Ti piace più lo fuggherò e fare quel che vuoi, stare a pancia in su e fare niente mai, allungare la mano e poi mangiare quel che vuoi, ma se l'esquimese viene qui corri sempre per vedere lui. Correte qui, correte là, mai niente al mondo più mi piacerà. Correte qui, c'è un gatto che fa miau, nessuno dorme mai, tutti hanno lì ancora mai. Di notte tu pensi troppo, così tu non sogni più, ma se l'esquimese arriva qui sono certo dormirai anche tu. Correte qui, sono le 21:30. Spot. Un mondo diverso per acquistare abbigliamento di qualità a prezzo di fabbrica non è il solito negozio, ma Nonesso. Dal 23 al 28 aprile presso l'hotel Eurorest in circonvallazione di Conegliano, Nonesso ti propone la nuova collezione 2010. Abiti uomo in pura lana a partire da 120 euro, pantaloni da 32 euro, giacche da 78 euro e molto altro. Nonesso ti offre anche il servizio abiti cuciti addosso per capi perfettamente su misura per te. Nonesso è a Conegliano presso l'hotel Eurorest sulla circonvallazione dal 23 al 28 aprile. Non perdere questa occasione. Blu Radio Sera. Sì, siamo sempre in collegamento con Pietruccio Montalbetti per parlare del suo libro I ragazzi della via Stendhal. Pietruccio, ci sei? Sì, ci sono. Benissimo. Allora, Pietruccio, c'è un episodio che bisogna raccontare. Innanzitutto, devo dire che un libro si legge molto ben volentieri, scorrevole, l'ho letto tutto d'un fiato, complimenti, hai scritto molto bene, secondo me. Grazie. Considerare che questo è il primo, io ne ho nel cassetto altri 4. Ah, bene, bene. Benissimo. E la presentazione, cioè io sono questo, poi gli altri 4 sono molto molto interessanti, molto quasi solamente belli. Parliamo di un episodio. Perché parliamo di questo episodio? Perché mi vi in mente Tim Hardy e ti spiego il perché. Voi siete stati in Romania con una tournée con i Dick Dick. E praticamente il compenso che voi avete avuto non potevate più portarlo fuori, dovevate spenderlo in Romania. Però com'è successo il discorso della Romania? Ma non lo so, a un certo punto eravamo primi in classifica e ci hanno richiesto di fare una serie di trasmissioni televisive in Romania. Esatto, a Bucarest. Poi a Bucarest. Siamo arrivati a Bucarest e era una città particolarmente strana. Cioè poco popolata, ci hanno portato in un albergo che non aveva le serrature e ci hanno detto aspettate, siamo rimasti lì 3 giorni e non sapevamo cosa fare. Ogni tanto era ancora Ceaușescu, certo, sì. Entrava qualcuno, ci guardava e usciva, quando uscivamo ci controllavano i bagagli. E poi la cosa più singolare è stata che era una domenica, non sapevo cosa fare, ho visto che c'erano dei giardini lontani in un viale piuttosto squallido e sono andato in questi giardini. Ero con i miei compagni, siamo stati proiettati in un'altra epoca, cioè di colpo era come se fossero 30 anni meno. C'erano i bambini vestiti da marinaretto che giocavano con il cerchio, c'erano le baglie con le carrozzine tipo la crociata Potionchi, c'erano quelli che facevano le fotografie con il treppiede così, c'erano quelli che vendevano, cioè era una cosa, ci sembrava di essere un altro pianeta. Poi ci hanno dato dei quattro, poi sono venuti moneta di Bucarest, dobbiamo sottolineare questo. La moneta Bucarest. Allora, non potevamo portarli fuori, primo. Secondo, non potevamo cambiarli. Certo. Non potevamo comprare niente. Esatto. Allora, quindi ci siamo ritrovati, noi siamo andati, c'era un posto che si chiamava Consignazia, dove vendevano dei bellissimi quadri antichi, così, ma non potevamo comprarli. Cioè, li compravamo, ma non potevamo esportarli. Allora, io a un certo punto, preso la disperazione, mi ricordo che camminando per Bucarest, era un pomeriggio, e ho visto uno che chiedeva l'elemosina, ho tirato fuori il mio pacco di soldi, si chiamavano lei. Esatto. Ho preso un pacco di soldi che non so quanti erano, fai conto 300.000 lire di allora. Di allora? Io l'ho messo in mano, questo qua è rimasto basito. Poi mi è corso dietro e mi ha detto, mi ha ridato indietro i soldi, mi ha detto guarda che non, mi ha fatto capire che non poteva accettare tutti questi soldi perché non poteva giustificarli. Orale li abbiamo presi e li abbiamo bruciati. È vero. E sai perché ho fatto citare questo episodio da parte tua? Perché a Einheits di Kate Emerson è successa la stessa cosa in Polonia. Identica roba, identico episodio simile in Polonia, la stessa cosa, stesso periodo di tempo. Ma difatti è stata però un'esperienza interessante. Abbiamo fatto un paio di televisioni e poi non so che cosa è successo. Siamo tornati indietro, con le pive nel sacco, tutto lì. Esattamente. Sono cose, perché il libro non racconta solamente, come tu giustamente hai detto, della carriera di Dick, solo a margine della carriera di Dick, racconta le tue esperienze alla fine appena nel dopoguerra fino ad arrivare agli anni 70. È una cosa interessante i tuoi viaggi, per esempio ce n'è uno in Colombia. Siete state fermi 2 mesi, mi pare, perché il produttore non aveva combinato bene i contratti, dovete stare 2 mesi in Polonia e in Colombia, quindi tu hai avuto la possibilità di vedere questo luogo meraviglioso. Allora no, io quando sono andato in Colombia, è lì che ho cominciato a viaggiare. A un certo punto avevamo una bellissima casa affittata, era l'ex ambasciata americana, c'era tutto preparato per un grande lancio in Sud America, solo che questo produttore era ricco ma sprovveduto. Esattamente. Però eravamo amici del figlio dell'ex presidente della Colombia, che sapevo che aveva una fincas, una fattoria giù nello Llano, che è una zona al di là delle Ande, prima dell'Amazzonia. Continuava a dirmi, mañana, io ho detto, voleva rendere vita, mañana, la mattina mi sono alzato, sono andato là e ho detto, si chiamava Juan Manuel, dico, Juan, io vado nello Llano, ma guarda, io vado nello Llano, ho preso il pullman e lui ha avvisato, sono arrivato in un posto che si chiama Villa Vicenzi, giù nello Llano, tu considera che da 2500 metri tu scendi verso sud, in una zona tropicale, dove sembra di essere il Far West, cioè viaggiavano a cavallo con le rivoltelle così, e lì ho capito che mi sarebbe piaciuto viaggiare in solitario per altri libri. Da lì poi, quando sono tornato, poi ho cominciato a viaggiare, ho fatto l'Amazzonia diverse volte, ho vissuto con degli indios, i Jivaros, Yanomami, Baniba, così. Ho fatto il Venezuela, ho risalito l'Orinoco per 1200 chilometri, poi ho fatto l'Ecuador, ho fatto il Perù, ho fatto gli antichi cammini del Perù, poi ho fatto la Bolivia, poi mi sono spostato, ho fatto l'India, ho fatto la Birmania, la Thailandia, il Nepal, poi sono stato in Tibet, ho scalato montagne in Tibet. Incredibile, hai fatto di tutto. E nel libro racconti in modo divertente anche i pullman spettacolosi che avevano in Colombia. un po' di tutto c'era per arrivare là. E poi quella passeggiata alle 7 di sera nel buio pesto nella foresta. Sì, no, ma questi qua sono solamente, questo libro ha la funzione di dire, io sono questa cosa, adesso aspettatevi, perché io ho dei racconti, ne ho dei racconti che verranno fuori nei prossimi anni. Nei prossimi libri, sono le prossime puntate delle tue descrizioni. Ritorniamo momentaneamente alla musica e parliamo di questo pezzo di Tim Hardin che io trovo meraviglioso, If You Are Comforted. Come mai all'epoca avevate deciso di fare la cover di questo pezzo molto molto bello? Tim Hardin è un autore straordinario. È un pezzo che mi piaceva e mi piace continuamente. Lo trovo una canzone che, non so, mi evoca delle sensazioni strane. Poi ti dirò che la traduzione in testo di Mogol, sì, aveva un altro titolo che ci hanno censurato, non era Se io fossi un falegname, era Se io fossi un falegname, ma la canzone diceva Se io fossi un falegname e tu ti chiamassi Maria. Ah, ho capito. È stato censurato, abbiamo detto, se io fossi un falegname e tu fossi una signora, ecco, per dirti che la censura allora era molto rigida. Confronto adesso, cioè le cose che vengono fuori adesso anche dal punto di vista musicale era un bel pezzo, forse un po' difficile di appropriarsi di un gruppo, però voi l'avete fatto bene e avete avuto coraggio, non era semplice secondo me. Ma sai, noi nella nostra discografia, sia nelle canzoni che ha costruite per noi che nelle cover, abbiamo sempre scelto delle cose di qualità. Certo. Non siamo mai andati a compromessi, anche perché io e Battisti eravamo molto uniti nelle nostre idee, cioè eravamo sempre alla ricerca di qualche cosa e non lasciavamo niente al caso. Lui era molto bravo in studio, si è formato con noi, però si è formato bene perché ha capito molte cose, e siamo sempre stati molto caparbi nella ricerca dei suoni, delle cose, non lasciavamo mai niente così tanto per fare, e quindi alla fine sono passati tanti anni e le nostre canzoni in effetti sono facili, ma nello stesso tempo sono sempre state di un certo spessore, sia anche da un punto di vista letterale. Cioè, fortuna noi abbiamo avuto uno come un Mogol che nonostante tutto, a parte il suo carattere un po' particolare, chi lo conosce un po', però è un genio nel scrivere i testi. Certamente. Allora adesso sentiamo i Frère Carpet, Se tu fossi un falegname, nella versione di Dick Dick, e con la sentiamo assieme. Il pezzo è molto bello e molto significativo, secondo me. Grazie. Signora, tu credi davvero che mi vorresti ancora? Avresti negli occhi la stessa dolcezza, oppure sarebbe soltanto tristezza? No, non mi rispondere, forse non lo sai. Preferisco non crederlo, non rispondermi mai. Preferisco non crederlo, non rispondermi mai. Se tu amassi un povero, dimmi, saresti tu o saresti un'altra vorrebbe di più? E quello che ti offro è importante per te, o vivi soltanto veramente per me? Una signora, tu credi davvero che mi vorresti ancora? Radio, dai colore alle tue frequenze. Blu Radio Sera. Ok, stiamo sempre parlando, piacevolmente conversando con Pietruccio Montalbetti, parlando del suo libro I ragazzi della via Stendhal, e stiamo andando avanti, abbiamo sentito questo pezzo meraviglioso di Tim Hardy e proseguiamo. Ci sono dei capitoli molto belli, molto significativi. Mi parli il momento della vostra calata in Cile. Dunque, la calata in Cile è stata una cosa insieme a Tozzi. A Tozzi, esatto, sì, proprio quello. E abbiamo fatto questo festival di Vigna del Mar. Famosissimo, grandissimo, certo. Sì, c'erano 70.000 persone, una cosa fantastica. E lì racconto un particolare molto divertente, molto buffo. Allora siamo arrivati, a parte che l'aereo è andato fuori pista a Madrid, già un inizio un po' così. Vabbè, ma quello non è un problema, perché ho volato talmente tanto, ho avuto talmente tanti piccoli incidenti che però sono formati bene, che è una cosa normale. Cioè, vabbè. Quando sono arrivato lì, gli articoli dei giornali si susseguivano, avevano messo il mio cognome, Montalbetti. Un giorno sono lì, un hotel si chiama Indian sul mare, eravamo andati via in novembre, ma là era estate piena, eravamo lì in piscina con Berto Tozzi, noi così. Vedo un cameriere che indica ad un ragazzo alto, biondo, verso di me, vedo che questo ragazzo arriva e guarda, e dico, chissà cosa vorrà, mi fa, ma tu ti chiami Montalbetti? Sì. Anch'io mi chiamo Montalbetti. praticamente aveva letto sul giornale e praticamente c'era una comunità di persone che si chiamavano come me. Io, mio padre viene dalla zona di Varese, e un giorno dopo è venuto a prendermi con una fuoristrada di quelli americani, belli. Abbiamo fatto non so 40 chilometri, siamo andati in una villa mega galattica, proprio veramente una villa da miliardari, e lì c'era tutta una comunità di 15-20 persone che si chiamavano tutti i parenti Montalbetti, mi hanno fatto una grande festa e sono stato con loro un giorno, probabilmente erano miei parenti, ma forse no, non lo so, però era gente molto ricca, era arrivata, evidentemente erano persone ricche, ed è stata un'esperienza strana. Adesso ogni posto in cui io vado, guardo sempre nel elenco se ci sono dei Montalbetti. qualche parente alla lontana. Cioè, e poi racconti un altro episodio, questo negli Stati Uniti mi pare, il discorso del, quel personaggio un po' strano negli Stati Uniti. Quel personaggio strano, perché quando siamo stati a New York la prima volta, abbiamo fatto New York, Chicago, Philadelphia, abbiamo suonato al Madison Square Garden, perché si usava, noi siamo, 3 mesi fa siamo stati in Canada a suonare a Niagara Falls, abbiamo fatto 2 concerti in un teatro lì a Niagara Falls, pieno di italiani, 2 concerti pieni di gente, sold out. Benissimo. Quando siamo andati negli Stati Uniti tanti anni fa, siamo stati presi in carico da personaggi di dubbio particolari, perché lì è così, non so se è così ancora, è così. Abbiamo fatto questi concerti, c'avevamo una guardia del corpo che ci portava in giro, si chiamava Lorenzo Perfetto, era una specie di macigno enorme. Poi un giorno è venuto da noi, ha detto, lui e altri, ha detto, questa sera siete invitati a cena, non puoi dire ma forse no, siete invitati a cena. E basta. Siamo andati a cena, siamo arrivati in mi sembra nella zona di Brooklyn, siamo andati in una casa che sembrava una casa molto italiana del sud, c'era una grande tavola imbandita, c'erano 2 stanze imbandite, una dove c'erano tutte le donne e poi c'era una tavola con diversi posti, c'eravamo tutti noi 5 più altri 3 persone, 3 tizi che ci avevano portato, e a capo tavola c'era un tizio tutto vestito di nero che ci ha fatto accomodare, ci ha stretto la mano, non ha detto una parola, c'era un silenzio assoluto, io non ti posso dire chi è, però d'accordo, certo. dell'alta così, abbiamo capito. Sì. Ogni tanto mi diceva mi piace, sì, mi piace questo piatto, sì. Le donne andavano avanti e indietro da una sala all'altra e continuavano a servire, questo qua ha mangiato, ho detto 5-6 volte mi piace, sì. E dopodiché basta. Come un film praticamente, Pietruccio. Praticamente è come aver visto Il Padrino. Il Padrino, esatto. Io ho vissuto Il Padrino lì, però molto gentili, molto sì, educati, d'accordo, molto... d'accordissimo. Una volta, cioè, era così. La parola che diceva, mi piace. Era così praticamente. E poi c'è un altro episodio. Beh, facciamo sentire un pezzo adesso. Io ho scelto, mi piace molto. E non ora credi, perché è un pezzo di Robbie Robertson che ha ripreso Mogol, che voi avete rifatto. L'hanno rifatto anche i Lox, però non hanno avuto il successo che avete avuto voi. Lallo canta benissimo. L'hanno rifatto in diversi. Sì, ma io ricordo quello dei Rox. Bon Jovi l'hanno fatto. Sì, ma in Italia parlavo. Italia. Solo i Rox l'hanno rifatto, mi pare. E quello, però voi l'avete fatta benissimo. Il titolo originale è The Weight, il peso, e l'onore credi. Lalo la canta molto bene, c'è niente da dire. Sì, ma eravamo dietro 2 grandi maestri, Battisti e Mogol, quindi considera che tutto quello che è stato fatto in quel periodo era ben curato da 2 grandi che poi lo sono stati per conto loro. Esattamente, il pezzo è bello. Ma Battisti Mogol, cioè è una accoppiata vincente, ma sì, non so, Vendo Casa, com'è nato Vendo Casa? Ah, Vendo Casa è nata perché doveva ripagarmi di un piccolo sgarbo che mi aveva fatto. Ti ho capito qual è, se vuoi citarlo lo puoi citare. Sì, no, a un certo punto eravamo in studio a fare il primo giorno di primavera, stavamo finendo così, e noi eravamo troppo abituati. I primi tempi lo andavo a prendere io, perché abitava, si era trasferito da Roma per entrare nella casa discografica e quindi produrre musica, si era trasferito a Milano ed era vicino a casa mia, okay. Nel quartiere a 300 metri. I primi tempi non aveva la macchina e quindi andavo a prenderlo io, c'avevo cioè 500, andavo a casa sua, lo prendiavo, lo portavo in studio, lo portavo indietro, ma sai, eravamo molto uniti. La leggenda narra che molte volte tua mamma gli ha fatto da mangiare. Sì, gli faceva il minestrone, ma sai, la leggenda narra che io l'ho conosciuto, poi ti racconto anche il resto, l'abbiamo conosciuto in un provino, nel primo provino che abbiamo fatto, era il mese di novembre, poi ci siamo piaciuti subito, ma indipendentemente da quello che faceva, no? Così, perché era carino, una bella faccia, simpatico. Io poi ho avuto subito un feeling con lui. Poi lui suonava, era il chitarrista dei Campioni. Sì, quelli di Tony Dall'Ara. Però non c'era più Tony Dall'Ara, ma c'era Tony. Ho capito. Il post Tony Dall'Ara, praticamente. Sì, lui suonava la chitarra. E quando ci siamo visti quel giorno lì di novembre, mi ha detto: ma io adesso devo partire, perché abbiamo degli spettacoli come orchestra nei vari casinò in Olanda, in Germania. E poi non l'ho più visto. Il 23 di dicembre dello stesso anno io stavo attraversando Piazza del Duomo, mi sento tirare la giacca, era una di quelle giornate, beh, Milano è sempre uggioso, però non c'è mai. Tirare la giacca, ero in mezzo alla piazza del Duomo, mi sento tirare la giacca, mi giro e mi fa: ti ricordi di me? Certo che mi ricordo. Come fa Lucio? Ah, bene, guarda, sono appena tornato dalla Germania, dall'Olanda, non lo so. Ho detto: ma come mai il 23 dicembre sei qua? No, perché io il 26 dobbiamo suonare a Caprice, adesso fai conto Caprice un night, e allora non faccio in tempo ad andare a casa. Lui non si era ancora trasferito a Milano, aveva casa a Roma con suo padre, sì. Con sua mamma più che altro, perché suo padre non è mai andato d'accordo con suo padre. Allora gli ho detto: ma scusa, ma come fai? Il giorno di Natale? Ma non lo so, sai. Ho detto: allora dai, facciamo così, telefono a casa mia, lo passi con noi Natale, ma proprio per simpatia, non avrei mai pensato che sarebbe diventato quello che è diventato. E così è nato un sodalizio triplo, perché è nato con me, ma lì poi lui ha conosciuto mio fratello. Certo. Mio fratello, che si chiama Cesare Monti Montalbetti, sì. Colui il quale ha fatto tutte le copertine e tutte le immagini che voi vedete di Lucio Battisti sono ad opera di mio fratello. Certo. Che era appena tornato dall'Inghilterra e era diventato, non so se direttore o della rivista Rolling Stone, aveva capito che aveva portato in Italia il concetto che la copertina doveva rispecchiare quello che c'era dentro. Le copertine dei dischi, cosa mettiamo in copertina? Qualsiasi cosa. Invece lui ha fatto capire ai discografici che la copertina era importante, perché rappresentava il concetto di quello che uno voleva dire. Battisti, che non era stupido ma era molto intelligente, si è subito accaparrato mio fratello ed è subentrato un sodalizio a tre, quindi io, lui e mio fratello. Mia madre era una cuoca pessima, ma pessima, non sapeva fare da mangiare. Era così affettuosa con Lucio che facciamo dei magliami astroni di pane. E lui era di bocca buona, gli diceva: che se mangia oggi? Minestrone. Ogni tanto veniva a casa mia, mangiava minestrone, ma era una cosa. Poi era talmente affezionato a mia madre che la prima macchina che ha comprato, mi ricordo, era la Duetto rossa, la prima persona a cui l'ha fatta vedere è stata mia madre. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Ok, poi allora sentiamo madre. Eleonora Credi da parte di Dick Dick, un altro pezzo meraviglioso. Va bene, dai. Vai. Vai. Cielo, alzare più non vuoi. Mi hai detto che la vita a te non sorride mai. La speranza se n'è andata e tu in nessuno credi più. Eleonora, credi, credi almeno in me. Accenderai, il mondo gira lontano dagli occhi tuoi e nel tuo cuore non cresce più nemmeno un fiore ormai. Eleonora, credi, credi almeno in me. Radio Sera. Ok, ci siamo, sì, adesso è caduta, adesso riprendiamo la linea, qualche secondo, stiamo parlando con Pietruccio Montalbetti, parlavamo di questo libro I ragazzi della via Stendhal. Come avete sentito, lui ci ha narrato degli episodi piacevolissimi dei suoi viaggi, dei suoi progetti e della sua grande amicizia con Lucio Battisti, grande Lucio. Come ha prodotto parecchi pezzi dei Dick Dick, ha scritto molti pezzi dei Dick Dick. Lucio era molto avanti dal punto di vista musicale, indubbiamente, personaggio incredibile, e si è visto anche con la seconda parte della sua carriera quando si è allontanato da Mogol. Ecco, ci siamo, l'abbiamo ripreso. Pietruccio, ci sei? Sì, ci sono. Benissimo. Dopo stiamo concludendo, io vorrei stare tanto per parlare di questo libro, che è molto piacevole e accattivante. Ci sono due paragrafi, e uno è Eric il Vichingo. Eric il Vichingo è un personaggio, perché devi sapere che io da ragazzo avrei voluto fare il marinaio. E quindi quando poi ho incontrato, una volta ero all'aeroporto di Palermo e ho comprato un libro di uno che si chiamava Eric Pascoli, che aveva appena attraversato l'Oceano Atlantico in solitario. Ho fatto di tutto per conoscerlo e poi sono diventato amico. E con lui ho fatto delle navigate, era un personaggio incredibile, cioè era veramente un vichingo. E con lui ho preparato, ho fatto portavamo delle barche dal Golfo del Leone, ma vela, sto parlando, certo, dal Golfo del Leone fino a Genova, abbiamo fatto delle belle navigate, ho imparato bene ad andare in barca a vela. Poi gli è stato chiesto di fare la regata in giro per il mondo, ha dovuto preparare la barca e io l'ho aiutato. Preparare la barca significa sistemare tutto, guardare i pesi, le cose, provare, che il giro del mondo era piuttosto complicato. Direi sì, perché non volevi lasciare i DVD, che sono andavi anche te, quello è la verità, o no? No, è che mi sognavo, poi invece è prevalso il fatto della musica, cioè certo, avrei dovuto star via 3 mesi, 4 mesi, avrei non... un po' snaturato il discorso della band. È stato un sogno che però poi ho realizzato in altra maniera, viaggiando, facendo delle cose come se fossi stato un navigatore solitario. Sì, Mr. Livingstone, mi viene in mente Mr. Livingstone, I Suppose, un altro, sì, un pezzo famoso di Moody Blues, tra parentesi. Ah sì, no, non io. È da famoso quell'album storico dei Moody, c'è un pezzo dedicato al dottor Livingstone. Ah, io conosco Watching the Wedding di Moody Blues, che mi faceva sentire, bellissimo, dire, ma no, ma ragazzi, che bravi che erano, Moody, erano bravissimi, e mi faceva morire, bravissimi. È stata un'epoca in cui è stato scritto tutto nella musica, tutto, per quello che adesso i giovani, ogni tanto qualcuno mi dice, ma che consigli dai ai giovani? Ragazzi, consigli voi che sia, siete capitati male nel senso che è stato scritto tutto quello di tutto, partendo dai Beatles, Rolling Stone, Led Zeppelin, ai Moody Blues, ai Genesis, ai Pink Floyd, chi ne ha più ne metta, cioè è stato scritto tutto. Adesso cosa vuoi inventare adesso? Certo. È difficile inventare delle cose. Poi era gente che è stata una generazione di gente che aveva fame proprio, e quindi si buttava in queste cose qua, anima e corpo. Adesso non c'è più questo desiderio, questa voglia, c'è la voglia sì, ma è tutta una parte estetica, anche perché io penso che questa sia una società dell'apparire e non dell'essere. Se tu appari sei, se non appari non sei, ed è una società un po' in declino, non dico solo l'Italia, ma l'Italia in particolare, certo, è una società in declino dove i valori veri non vengono messi in evidenza se non attraverso la visibilità. Uno può anche essere bravo senza essere visto, però così è così rimane. Perché Sanremo è Sanremo, Pietruccio? Un altro parametro, paragrafo del libro, perché Sanremo e Sanremo? 4 partecipazioni a Sanremo da parte vostra. Beh, il primo festival, noi siamo sempre arrivati a Sanremo con dei pezzi abbastanza sostanziosi, a parte il primo che però era Zucchero, era una canzone che facevamo in coppia con Rita Pavone. Pavone. Esatto. Però poi abbiamo fatto una canzone con la Caterina Caselli che ci aveva massacrato. Era, sì. Accidenti era, non mi ricordo, una canzone piuttosto complicata, complessa, che non era adatta a Sanremo. Ma un'altra volta l'abbiamo fatto con una canzone che si intitolava Io mi fermo, che è bellissima, secondo me. Donatello è grande, è il Donovan italiano, secondo me, in quel periodo. Come l'abbiamo fatta sentire alle prove, sono venuti a dire, questa canzone è troppo bella. Avevamo capito che non funzionava lì al festival, però ci hanno cacciato fuori, esatto, ma poi la canzone ha avuto un grande successo. Un grandissimo successo. Sì, Donatello, era il Donovan, anche sì. Gian Pieretti era il Donovan italiano, sì, forse sì, lo era, no, veramente, ma Donatello aveva qualcosa del Donovan italiano. Sì, aveva anche un modo di cantare, ma più che altro Gian Pieretti era Kerouac italiano. È vero. quindi è stato un periodo così, i festival in Sanremo non sempre una cosa di grande stress, che hanno solo la funzione di darti visibilità. Adesso come adesso ti danno visibilità, ma ti danno delle grandi illusioni, perché i festival di Sanremo producono grandi illusioni in questi giovani, i quali pensano di essere arrivati e poi scompaiono, perché questa è una società che consuma velocemente tutto, purtroppo, non che non abbiano un valore nelle canzoni dei giovani, mancherebbe altro, cioè io chi vince il Festival di Sanremo lo vince per merito probabilmente, però poi viene fagocitato, viene assorbito da questa, da quello che va bene oggi, domani non va più bene, guarda anche le tecnologie, inventi una cosa adesso, nei computer domani è già stata superata, quindi c'è proprio una società che consuma velocemente, che piglia, adopera e butta via. Esattamente, hai ragione perfettamente. Chi si ricorda il pezzo di 2 anni fa al vincitore di Sanremo? Non se lo ricorda quasi nessuno, ma io mi fermo qui se lo ricordano tutti. Certo. C'è poco da fare, è quello l'importante della cosa. Allora, due cose: il progetto di scrittore di Pertuccio lo sappiamo, altri 4 libri arriveranno, e il progetto di musicista con i Dick Dick di Pertuccio come si evolve adesso? Beh, si evolve che adesso stiamo preparando il tour estivo, molto bello, molto ampio, molto infatti di cose. La discografia, abbiamo tanti provini, tante cose, ma come fai a fare i dischi che poi non si vendono? Quello discorso. Ma no, non è che la gente ascolta più musica in questo periodo, ma però ha voglia di sentire la musica dal vivo. Cioè i dischi in fondo stanno scomparendo, perché anche perché quando tu fai un disco poi vengono masterizzati, copiati, cioè l'industria discografica è in declino, perché la gente ascolta più musica ma compra meno dischi. Compra pochissimi dischi, molto rispetto all'epoca. Ci sono 10 ragazzi che amano, non so, anche Vasco Rossi, 10 ragazzi, uno compra un disco di Vasco Rossi, gli altri 9 lo hanno in serie. Così. Lo copiano. Certo, è così. Bene, io ti ringrazio di questa conversazione, è stata piacevolissima. Ricordiamo Pietruccio Bontalbetti, Ragazzi della via Stendhal, Il tratto di una generazione, la casa editrice la Aerostella, un libro molto bello, assolutamente da comprare, si legge in un fiato secondo me. Va bene, vedrai che gli altri li leggerai ancora più velocemente. Bene. Tra l'altro sto scrivendo l'ultimo, che, di cui ti posso dire il titolo, In viaggio con Siddhartha. Siddhartha era un personaggio, scritto da Hermann Hesse, ed erano, e sto mettendo insieme due realtà, quella di Siddhartha e quella di Kerouac, che è il grande compositore, diciamo, della filosofia beat. La Beat Generation. E sto mettendo insieme queste due cose in un racconto molto semplice, perché durante il periodo nel 68-69 persino i Beatles hanno letto queste cose e si sono spostati filosoficamente e anche fisicamente in India. Il mio personaggio invece si sposta qui in Italia dopo aver letto e aver introiettato questa voglia di viaggiare e di capire la gente. Benissimo, lo scopriremo quando sarà il momento e ti intervisteremo quando sarà il momento. Concludiamo questa bellissima conversazione con un classico dei Dick Dick. Io mi fermo qui, versione non di Donatello, ma chiaramente versione dei Dick Dick, una versione che ha avuto grandissimo successo dopo Sanremo, chiaramente, dopo Sanremo. Certo. Va bene. Grazie Pietruccio di tutto. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao, grazie a te. Ciao. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. piano che si nasconde in me, più non volerà in Africa. Quando sto con te, sento dentro me che tu abiti ormai nell'anima. Radio Sera.